un presidente democratico, Bill Clinton, il dialogo poi funzionò, si portarono a casa molte riforme. E lui stesso ricordò come Bill Clinton si prestò a trovare un accordo con i repubblicani per una riforma del welfare. E dunque il messaggio politico è: caro Obama, muoviti verso il centro, anzi verso il centrodestra, abbandona la tua base liberal un po' troppo a sinistra e vedrai che se avremo qualche tipo di convergenza, beh, le cose si potranno fare. Tutto sommato, ricordato McConnell, il presidente non dovrà dimenticare che a novembre abbiamo vinto noi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, e vorrei legarla a un evento di cronaca. Ieri il Pentagono ha diffuso uno studio secondo cui si sostiene che l'abolizione della legge Don't Ask, Don't Tell, cioè quella legge un po' ibrida, un po' ipocrita, secondo cui i gay potevano essere ammessi nell'esercito, ma l'importante era che non lo dicessero e l'importante era che non gli venisse chiesto, e quindi una forma di ipocrisia per salvaguardare quella regola che impediva invece l'ingresso dei gay nell'esercito. Obama voleva abolire questa legge, il Pentagono e Bob Gates, il segretario del Pentagono, hanno comunicato ieri che il 70% dei militari è favorevole all'abolizione di questa legge. Ci potrà essere forse qualche piccolo problemino molto isolato all'inizio, ma che alla fine ormai i gay sono accettati perfettamente. Poche ore prima la diffusione di questo documento c'è stato un intervento spettacolare, un intervento di Lady Gaga che ha lanciato un appello su YouTube, un video messaggio in cui chiedeva ai senatori americani di approvare l'abolizione della legge. Dunque anche Lady Gaga è entrata proprio ieri in argomento e in omaggio a lei, paladina dei diritti gay, vi facciamo ascoltare una sua grande canzone, Poker Face. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.